leggerò. Dalle paure che poco mi dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Dalle ingiustizie, dai danni del tuo tempo, dai fallimenti che per tuo nome normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori dei tuoi spazi d'amore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagare per i campi del Tennessee, come più arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di altri miei sogni, attraverso il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. D'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come tramo di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò. Che avrò cura di te.